Victoria. Il vestito rosa che le aveva prestato Mi le stava decisamente troppo piccolo e a ogni movimento le scopriva il sedere. Victoria era costretta a stare sempre in guardia per non mostrare le parti intime agli altri avventori del ristorante di Abby. Avevano occupato un tavolo da quattro. I due uomini si erano sistemati uno di rimpetto all'altro. Victoria, appollaiata su uno scomodo sgabello, aveva di fronte Mi, che non faceva altro che ridere e annuire. La carne fibrosa e le patatine mollicce erano finite. Malte raccolse dal piatto le ultime tracce di salsa bernese con un dito. «Adesso brindiamo!» «Beh, tu no, Mi, altrimenti il bambino nasce ritardato!» esclamò alzando il bicchiere di birra e scoprendo i denti gialli. Aveva la bocca e le guance lucide di grasso. La risata isterica di Mi ferì le orecchie di Victoria. «Salute, cazzo!» intervenne Lars, prima di svuotare il bicchiere di birra e chiederne subito un altro al cameriere. Nei primi mesi era stata Victoria a portare avanti le conversazioni con Malte, a cercare qualche punto di contatto, a sforzarsi di tenerlo allegro e contento. Ma ormai quel tempo era passato. Le riusciva sempre più difficile nascondere il suo disprezzo e non capiva come facesse Mi a essere perennemente di buon umore. La piccola thailandese rideva e annuiva a qualsiasi commento idiota che usciva dalle bocche di Lars o di Malte. Sembrava soddisfatta della vita a Abby, soddisfatta di un marito ciccione che non si lavava e la trattava come una specie di animale domestico. C'era qualcosa dietro quelle risate e quegli occhi vuoti? «Mi accompagni in bagno?» chiese Victoria. Mi annuì e si alzò. In fretta e furia, Victoria si tirò giù il vestito, in modo da coprire almeno metà del sedere. Gli uomini nel locale la fissavano spudoratamente, leccandosi le labbra. Nella fila davanti all'unico bagno, due donne svedesi di una certa età le guardarono storto. «Puttane d'importazione», bisbigliò una indicandole all'amica con un cenno della testa. Victoria le fulminò con lo sguardo, poi diede un'occhiata a Mi, che sembrava del tutto indifferente. «Non ti dà fastidio che parlino così di te?» chiese quando furono dentro. Mi sembrava stupita. «No». Victoria sospirò e le indicò la pancia. «Sei contenta?» «Molto. Anche Lars contento. Io voglio fare lui contento». «Non odi questo posto di merda». «Abby?» «Sì». «Abby è ok. Ma non ti manca il tuo paese, la tua famiglia, i tuoi amici?» «Io non ho famiglia là. Io là ho niente. Qui ho tutto». Victoria sospirò ancora e si tirò giù il vestito. Uscirono accompagnate da nuove occhiate di disprezzo. Aika Terenburg avrebbe cavato gli occhi a qualunque donna avesse osato guardarla così, ma nessuna l'aveva mai fatto. Non dopo che si era messa con Yuri. Victoria lavorava in un negozio di biancheria intima, in un elegante centro commerciale della città. Una mattina, Yuri era arrivato con una bella donna e due guardie del corpo. La bionda platinata aveva respinto l'offerta di aiuto di Victoria, arricciando il naso, ed era entrata in un camerino con una pila di biancheria esclusiva. Yuri aveva strizzato l'occhio a Victoria. Poco dopo la donna era uscita e aveva gettato con alterigia un completo intimo sul bancone. Yuri si era alzato dalla poltrona in cui era sprofondato e aveva dato a Victoria una carta di credito, accompagnata da un bigliettino con uno smile e un numero di telefono. Appena se n'erano andati, Victoria aveva guardato il biglietto, dicendosi che quella era la sua grande opportunità. Anche se era felice di avere un lavoro, era irritante dover servire milionari altezzose per uno stipendio che bastava a malapena a pagare l'affitto. Nei night club di Ekaterinburg aveva visto uomini come Yuri spendere in una sola serata quanto lei guadagnava in un anno. Le loro donne quasi non riuscivano a muoversi, tanto erano appesantite da diamanti e gioielli d'oro. Sotto sotto aveva sempre saputo di voler essere una di loro, e quando si era accorta che Yuri non le toglieva gli occhi di dosso, aveva capito che la sua occasione era arrivata. Perciò, per una volta nella vita aveva deciso di non dare ascolto a sua madre. sarebbe entrata nell'alta società criminale di Ekaterinburg e per restarci. Sapeva bene che gli uomini come Yuri cambiavano donna ogni mese, ma lei aveva intenzione di giocare bene le sue carte. 4 giorni dopo Yuri tornò in negozio. Dalla sua prima visita, Victoria aveva passato sempre più tempo davanti allo specchio, la mattina. Quel giorno lui si presentò senza la bionda, accompagnato solo da una guardia del corpo che reggeva il sacchetto degli acquisti della volta precedente. «La merce non era di suo gradimento?» chiese Victoria con un sorriso provocante. Estrasse il perizoma dal sacchetto e glielo piazzò davanti agli occhi. «Ci vuole una vera donna per indossare una cosa del genere. Purtroppo non possiamo sostituire la biancheria intima. Deve dire a sua moglie di stare più attenta quando la prova». «Perché non hai chiamato?» chiese Yuri. «Chiamato?» replicò Victoria con simulato stupore. «Chi avrei dovuto chiamare?» Yuri sogghignò. «Stasera a cena?» «Cena o non cena, non posso cambiarle gli articoli. È la nostra policy». «Fanculo la biancheria, voglio vederti». «Lavoro, come vede». Victoria sentiva il cuore che le martellava. Stava esagerando? Stava per dire di sì quando Yuri tirò fuori il telefono. «Dammi il numero del tuo capo». Victoria fece come le aveva detto e sentì Yuri che si presentava per nome e cognome. Fece in tempo a sentire anche la voce sorpresa del suo capo prima che Yuri si allontanasse di qualche passo con il telefono all'orecchio. Un minuto dopo tornò alla cassa. «Allora siamo d'accordo. Dico al mio avvocato di mandarle il contratto. Arrivederci». Riattaccò. «Ho appena comprato il negozio. Gli orari di apertura sono cambiati e tu smonti tra 5 minuti». Una gomitata di malte risvegliò Victoria dai ricordi. «Non servono più ai tavoli. Va a prendere 2 birre», ordinò indicandole il bar.